diretta negli studi di Via Zanardi, altri suoni per il martedì. Del resto il martedì era la puntata, la giornata indicata per questo spazio di sonorità inconsuete, e oggi abbiamo a fine ottobre, oramai si può dire un ottobre che non ha deluso finora. Oggi, come abbiamo sentito, insomma, tempo molto variabile se non che grigio, beh, fa parte dell'autunno, no? Inizieremo quindi questa piccola monografia con Steve Jensen. Vi ho parlato di una familiarità importante, e importante anche il musicista stesso, il batterista Steve Jensen, produttore legato alla musica ambient, all'elettronica e anche alla ritmica. Essendo batterista, ha fatto parte di diverse formazioni, su di una ci soffermeremo un attimo, e procede tuttora nella sua carriera di musicista. All'anagrafe Stephen Butt, ed è fratello di David Allan Butt. Uno nasce nel 1959, è il più giovane di un anno, David Allan Butt nel 1958. Ma chi è David Allan Butt? Steve Jensen è il fratello di David Sylvian, ok? Collaborato con il più famoso David Sylvian nella formazione dei Japan, questa formazione di glam new wave che sinceramente ne ho sempre riconosciuto un talento eccezionale, è veramente qualcosa. Poi 1982 hanno avuto la possibilità di formare insieme a altri due musicisti, Carnen Barbieri, questo quartetto che ha avuto importanza per una new wave intellettuale, se vogliamo. Non erano esattamente i miei suoni, ma ciò non toglie che ne riconoscevo un immenso talento. Apprezzo di più Steve Jensen da solista o in collaborazione di situazione diversa, più vicina all'elettronica, all'ambient. Come vi ho detto, 1982, con il fratello forma i Japan, allo stesso modo procederà nelle produzioni di diversi dischi, avrà modo di portare anche in concerto con Annie Lennox, per dire, una collaborazione importante, e portare anche album da solista, caratterizzandoli con uno stile molto riconoscibile e talentuoso. Nel 2005 pubblica il primo album dei Nine Horses, una formazione che vede alla voce, certo, David Sylvian, ma anche una presenza importante per quanto riguarda l'elettronica e la ritmica, che è quella di Bart Friedman. Qui facciamo partire questo disco, questo lavoro, per la Samadhi Sound, dell'etichetta del fratello. Nine Horses, secondo me, è uno dei progetti più riusciti dove c'è la presenza di Steve Jensen. Ci ascoltiamo questo brano, poi torniamo in diretta per scoprire altri lavori e sonorità di Steve Jensen. I've got me a club, an exclusive club. Doesn't include a place for you. Thank you. fatto l'esempio di Giorgio De Chirico e Alberto Savigno, ha cambiato anche nome, entrambi hanno cambiato nome rispetto a Stephen Butt all'anagrafe, David Allan Butt, ma per avere una sua identità probabilmente riconoscibile da questa batteria che lascia il quattro quarti tipico della formazione Japan, più algido se vogliamo, più in batteria elettronica, per avere un approccio dub con la ritmica in levare. Sentiamo anche la presenza dei fiati di questo tenore che accompagna le sonorità e la voce di David Sylvian. Nine Horses per me è il progetto più, diciamo che per il mio gusto personale, ha portato ancora più in evidenza l'identità di Steve Jensen. Questa è un'altra formazione cappeggiata da Steve Jensen, dove non vi è il fratello David Sylvian. Lasciatevi trarre in inganno, Questi sono i Japan praticamente senza David Sylvian e la voce di Steve Jensen, che alla produzione ha avuto insieme agli altri elementi semplicemente con l'acronimo che è derivato dalle loro iniziali JBK con il disco ISM. la ritmica che è dominante, qui un aspetto di ambient con, come abbiamo ascoltato prima, questo lavoro più vicino alla rock, Nine Horses, e più una produzione dub and jazz. L'elettronica arriva con un cambio di mano, Changing Hands, dove con Jensen ci sarà Barbieri, sempre dei Japan, e Nobukatsu Takemura, altro produttore giapponese iper produttivo, se vogliamo, che ha collaborato per questo lavoro con una sorta di presenza di microbeat che vanno ad arricchire e impreziosire ulteriormente l'aspetto ambient delle produzioni di Jensen. Allo stesso tempo sonorità minimali che si addicono bene con l'aspetto più incisivo e percussivo di Jensen. Changing Hands, un cambio di mani, beh, non è Mood Groove, sarà breve, cambio di mano è caratteristica tipica, un movimento che porta un grande talento alla conclusione. Bisogna saperlo fare, il cambio di mano. Con un lavoro più recente, siamo nel 2009, continuerà a produrre ovviamente Steve Jensen con una label che ben conosciamo, che è la Low Recordings. Questo lavoro è da solista, è con quello che appunto volevo portare a termine la nostra mini playlist dedicata al fratello minore di David Sylvian, con lui cofondatore dei Japan. L'Alberto Savigno di Altri Suoni, come Giorgio De Chirico, è stato l'esponente della metafisica, qua la metafisica in musica con il fratello minore di David Sylvian, Steve Jensen. Questo brano, decisamente più legato ad Altri Suoni, proviene dal disco Slope per Low Recording, un disco che non ha avuto grande riconoscimento. A me personalmente piace. Thank you. accompagnerà alla conclusione, tuttora in attività, questo produttore, batterista e anche tastierista porterà questi suoni di ricerca in parte di carriera che insomma sta, non dico andando verso la conclusione, anzi gliene auguro di ricerche da qui a venire di tanti tanti tantissimi anni. Grande capacità discorsiva lui nella musica, è una bella narrazione musicale, apparentemente minimale, invece raccoglie veramente tante sensazioni. Quindi andiamo con il Mood Groove a breve, ancora un minutino di musica. Steve Jensen, fratello di David Sylvian, oggi è stato protagonista per Altri Suoni. Ci sentiamo dopo la pubblicità, buon ascolto.